ha ricevuto tanti quattrini dallo Stato italiano, ha anche dato tanto, fare il conto del dare e dell'avere è estremamente difficile. Il problema però, e questo è il grosso interrogativo che continua a tormentarmi, è chi gliel'ha fatto fare a Fiat di tirare fuori quel piano Fabbrica Italia, che fin dall'inizio francamente è sembrato un libro di belle speranze ma con pochissimo futuro. Questa è la cosa che capisco meno. E perché dice questo, professore? Insomma, alla fine è, voglio dire, se il progetto, come dire, di innovare le relazioni sindacali, di innovare appunto il rapporto con i sindacati, anche il metodo di produzione funziona, perché l'Italia sì, perché l'Italia no, diciamo così, e come dire, altri grandi produttori restano nei loro paesi d'origine? Allora, il progetto Fabbrica Italia mi era sembrato una cosa un po' strana proprio perché era una scommessa enorme, cioè era una cosa che poteva stare in piedi se si fossero veramente modificate in modo radicale per effetto della sulla richiesta della Fiat, della contrattazione con i sindacati, tutte le relazioni sindacali che riguardano la Fiat con i suoi lavoratori, che è un'impresa che mi è francamente sembrata titanica. Quello che Marchionne diceva, senza l'Italia noi avremmo i conti maggiormente floridi, beh, è noto, ma infatti è difficile capire per quale ragione avessero un piano che secondo me non ha un grande sbocco. Infatti Fabbrica Italia fatica a decollare a Pomigliano, a Mirafiori non si capisce bene cosa succederà, però è evidente che sta andando avanti invece il piano della Fiat in Serbia. Cioè, alla Fiat oggettivamente oggi conviene andare a produrre altrove, su questo credo che Marchionne non abbia detto assolutamente nulla di nuovo e nulla di illegittimo, direi.